Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritornati qui su Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone e buon primo maggio in ritardo. Cominciamo con un po' di musica. J'ai fait du bombala, on du wassolungan. Sur moi du makossa, du zouglou, du coupé, des galets. J'avais de la mazir, on du bon shabi. Gratte ton halam, toi le polar. Frappe ton balafo, toi le bambara. Fais résonner ta gora, griot du mané. Frappe ton sabar, toi le wolof. Angata. Chambre du Kizomba, du Zaïko, du Bikutsi. Chef de la Sigo, ou du Bamanankan. Fais chanter ton Kembri, toi le Malem. Chante ta Sansa, toi le Loulouwa. Chante le Kawali, toi le Benjabi. Fais sonner tes Karagab, toi le Gnawea. Di suoni africani, di ritmi africani, perché in realtà insomma parleremo anche di Africa in questa puntata di Zibaldone. Jumua, lui è Sandro Joyeux, questo è il suo nuovo brano uscito da poco più di un mese, un artista francese italiano molto bravo che qualche anno fa tra l'altro era stato anche qui a Barcellona in un concerto organizzato con Mediterranea e Altra Italia. Do subito però il benvenuto al nostro ergonomico Banzo, Enrico Banzola, bentornato a Zibaldone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. La frase è inevitabile, come è noto, per cominciare. Sì, siamo qui per la prima puntata di maggio. Partiamo, come hai detto tu, con suoni africani, con Sandro Joyeux, che è franco-italiano, però ha una notevole legittimità quando si parla di musica africana. Non è certamente un improvvisato, perché ha suonato in Mali in prima persona per alcuni anni, ha esplorato anche più a nord, più nella zona del Maghreb, i suoni della Gnawa, cioè questa musica sacra, un po' gli spiritual del Maghreb, semplificando moltissimo. E poi anche nella sua formazione c'è un musicista burkinabè che lo accompagna, il percussionista Inoussa Dembélé, che suona anche in questo brano, che in parte è registrato in Burkina Faso. È stato un parto complesso, è stato registrato anche fra l'Italia e la Francia, ed è la prepista di un nuovo EP di 4 pezzi coprodotto da Adriano Viterbini e Fabio Rondanini degli I Hate My Village, che suonano anche in questo brano. Questo era un bel inizio, molto informativo, molto concitato. Bravo Banzo, tante informazioni precise e puntuali come sempre. Una puntata in cui in realtà non parleremo di Africa, ma l'Africa tornerà sicuramente, soprattutto con l'intervistato che quest'oggi è Marco Birolini. Lui è un bravissimo giornalista, scrive ora per Avvenire. Il titolo della puntata, Banzo, vuoi dirlo tu? I segreti sporchi dell'Italia. Ecco, sono tanti, lo sappiamo, ecco, però di qualcuno parleremo quest'oggi, appunto con Marco Birolini, a partire dal suo libro uscito lo scorso anno intitolato Stato Canaglia, droga, armi, operazioni clandestine, gli affari sporchi dei servizi segreti italiani e stranieri, un libro che si basa su tantissime fonti, un lavoro d'archivio, veramente un lavoro prezioso. Ne parleremo tra poco con Marco Birolini, però insomma credo che i nostri ascoltatori abbiano capito, fra il titolo della puntata e il sottotitolo del libro, che sporco è una delle parole chiave della puntata di oggi. Ma c'è anche della musica, ecco, musica che ci accompagna con alcune news, in alcuni casi, come quella che ci sentiremo proprio ora, di un artista in realtà che purtroppo è da anni che non è più con noi. Non vi dico chi è, ascoltatevi questa canzone e vediamo se riconoscete subito, io credo di sì, dopo pochi secondi, la sua voce. Il lavoro è finito, in tram verso il centro, a farmi un hamburger al pub me ne andrò, ma non riesco a spiegare, non so che cos'è questa rabbia che ho dentro di me. Ragione Maria, lei che vive a Pescara e scrive poesie mentre piove sul mare, ma non riesce a spiegare, non sa che cos'è quella rabbia che ha dentro di sé, quella rabbia che ha dentro di sé. Come un velo leggero di tristezza negli occhi, adesso non sa, ma imparerà che cos'è quella rabbia che ha dentro di sé, quella rabbia che ha dentro di sé. Quella rabbia che ha dentro di sé, lui in mare. Che bella la voce inconfondibile di Ivan Graziani. Banzo, ovviamente si domanderanno i nostri ascoltatori, ma com'è che mandate in onda come una news musicale Ivan Graziani del 2024? Ecco dai, spiegalo tu. Anche perché Ivan Graziani purtroppo è venuto a mancare proprio all'inizio del 97, quindi sono già troppi, troppi anni. Beh, si tratta di un disco postumo, che però non è un lost album nel senso proprio del termine, cioè si tratta di un nastro ritrovato in un baule a casa Graziani dai figli, cioè da Filippo e Tommy, che poi hanno provveduto a renderlo un album vero e proprio, ecco, questo nastro. Ecco, Filippo ovviamente, che era menzionato nella canzone, autore. Come? Che era menzionato nella canzone. Esatto, che era menzionato nella canzone, era un bambino all'epoca, Filippo, che porta in giro anche la musica del padre, Tommy, il batterista, fratello di Filippo, altro figlio di Ivan, e hanno assemblato questo album che si intitola Per gli amici. Non avevamo detto che il brano si intitola, che abbiamo trasmesso, La rabbia. È forse il più bello di questo breve album, che ovviamente non può avere la compiutezza di un lavoro propriamente concepito fin dall'inizio, perché si tratta di demo che lo stesso Ivan Graziani non aveva completato per i motivi più svariati, più o meno risalgono all'inizio degli anni 90, se ho ben capito. E questo album, e qui chiudo Steven, contiene anche un altro brano che i nostri ascoltatori forse ricordano, la canzone dei Marinai, che avevamo trasmesso nel Rapporto Italia di novembre 2023, in quanto Colapesce e Di Martino l'avevano ripresa e completata, aggiungendo una parte di testo e cantandola in coabitazione con Ivan Graziani, questi prodigi della tecnologia. Insomma, abbiamo visto anche l'ultima canzone di Beatles qualche tempo fa. Sì. E niente, questo comunque è un disco che nel suo piccolo, perché come ho detto è molto breve, merita di essere approfondito. Infatti andiamo ad ascoltare un altro brano. Sì, il brano proprio che dà il titolo a questo album, Per gli amici. Godetevi Ivan Graziani, ritrovato e riscoperto una volta ancora, e ce n'è sempre bisogno. E poi invece, dopo la canzone di Ivan Graziani, già avremo con noi Marco Birolini e parleremo appunto dei segreti sporchi dell'Italia. Ale, la zappa ai contadini, la lingua lunga alle donne di servizio, uno sponsor al campione. E una vittoria ci sarà, chissà, a me una patente da buffone, e una corda buona quando mi si rompe il mi, una Gibson soli pari, e per gli amici suonerò un sì, un sì. C'è Stefania che sta a Lucca, che ancora porta addosso il mio maglione, non si è stancata d'aspettare, e nella piazza aspetterà, magari con qualche amica sua, a scherzare e a ridere di me. Chi se ne frega, mi rivendo la mia festa. Faccio un giuramento, magari perdessi la pennetta personale, che mi venisse un raffreddore, se ora è sempre per gli amici miei non suonerò. rieccoci qui in diretta, abbiamo in collegamento telefonico con noi l'ospite di questa puntata di Zibaldone, lui è Marco Birolini, giornalista, collaborato con l'ANSA, il Fatto Quotidiano, La Stampa, ora scrive per Avvenire, si occupa di criminalità, traffici di rifiuti, droga e armi con numerose inchieste che gli hanno valso diversi premi, tra cui il premio giornalistico Città di Arona nel 2014 e nel 2022 il premio cronista dell'anno assegnato dal gruppo Cronisti Lombardi per un'inchiesta sulla tratta delle nigeriane. Con lui quest'oggi parleremo del suo ultimo lavoro, il suo ultimo libro uscito a settembre dello scorso anno, intitolato Stato Canaglia, droga, armi, operazioni clandestine, gli affari sporchi dei servizi segreti italiani e stranieri, uscito per i tipi di Ponte alle Grazie. Innanzitutto Marco, benvenuto a Zibaldone, un piacere averti con noi quest'oggi. Piacere mio, ciao e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Stato Canaglia, hai scelto un titolo molto forte, molto chiaro, e tratti un'infinità di piccole grandi storie che hanno segnato la storia italiana, soprattutto a partire dal contesto siciliano, ma non solo, degli ultimi decenni, e che hanno a che fare essenzialmente con due grandi questioni che si legano strettamente, la droga e le armi. Sì, hai detto bene, allora sì, il titolo è forte, volutamente forte, ma è stato scelto... Ho pensato io per primo, poi ci siamo confrontati con la casa editrice, che tra l'altro devo ringraziare come per la fiducia nel progetto, come la curatrice Simona Zecchi, senza di loro non sarebbe stato possibile. Stato Canaglia è un titolo forte per illuminare, per dare l'idea proprio di quella parte di Stato che ha agito in maniera, diciamo così, ambigua, insomma, non tutto lo Stato, ma pezzi di Stato che ha appunto stretto patti, non dico con il diavolo, ma sicuramente con la criminalità organizzata. Su quest'asse che dicevi tu, armi e droga, che spesso si intersecano, vanno di pari passo, e spesso uno viene dato in cambio dell'altro. Cioè, se io devo acquistare una partita di armi, sono un movimento guerrigliero, la cosa più immediata che ho per acquistarle, il bancomat, il mio bancomat è la droga, pensiamo anche solo alle FARC colombiane. Sì. Esatto, però ci sono stati esempi anche nel Mediterraneo negli anni 70-80, secondo le indagini del giudice Carlo Palermo, che è stato il primo a intuire questo asse armi-droga, i monopolisti praticamente nel Mediterraneo erano i palestinesi di Settembre Nero, che chiaramente finanziavano la loro lotta armata non solo in questo modo, ma anche controllando il traffico allora dell'eroina che arrivava dall'Oriente, dall'Estremo Oriente, con anche, pare, la collaborazione di alcuni servizi segreti, secondo qualcuno libici, addirittura l'ex KGB, insomma. Mi piacerebbe con te, nei minuti che abbiamo a disposizione, entrare in alcune di queste storie. Sono tantissime, ovviamente invitiamo gli ascoltatori di acquistare il libro, e di un libro che si legge, tra l'altro si divora rapidamente. Ma prima ti volevo porre una questione di fondo, Marco. Tempi che stiamo vivendo, segnati dalla post-verità, dalle teorie cospirative, dalla sfiducia della cittadinanza, ecco, un'inchiesta come la tua, seria, basata su tantissime fonti, su tantissime interviste, potrebbe alla fine dare l'impressione, no, da una prospettiva molto superficiale, di avallare anche un po' quell'idea qualunquista, no, di una collusione sistematica fra autorità e crimine organizzato. Ecco, quello che ti voglio domandare è: come si può riconoscere la gravità oggettiva dei fatti documentati come quelli che racconti appunto in Stato Canaglia, senza scivolare in fin dei conti nel cinismo, nel qualunquismo, ecco, e dall'altro lato a quale antidoto, per così dire, può ricorrere il cittadino comune per non delegittimare per sé le istituzioni sotto le quali, insomma, si trova a vivere, una democrazia più debole ma in fin dei conti ancora un sistema più o meno democratico? Sì, assolutamente, una domanda complessa ma bellissima, perché mi dà modo di chiarire un equivoco con cui, non nascondiamoci, si ha a che fare. Il complottismo, come hai detto tu, le fake news, il qualunquismo, lasciami dire una battuta, il terrapiattismo, sì. Che magari è il rischio anche che corriamo noi che facciamo questo tipo di inchieste. Vale a dire, è chiaro che magari uno prende il libro e dice, ma sì, il solito complotto, il solito grande vecchio. Ecco, la prima cosa da capire è questo, che allora io ho capito questo, che più sai, più scopri, meno sai. Prima di tutto questo. Poi mi sono basato, come ogni ricerca seria dovrebbe essere, sui documenti, tanti desecretati, quindi teniamo conto rimasti sconosciuti fino a pochi anni fa. La maggior parte dei documenti che ho consultato io sono stati desecretati dall'allora governo Renzi e quindi, insomma, fino a 4-5 anni fa erano ignoti. Poi la cosa fondamentale da capire, secondo me, è che non c'è dietro lo Stato un grande vecchio, un grande cattivone, la Spectre. No, per certi versi sarebbe anche meglio, perché sarebbe più semplice. Invece ci sono tanti interessi, tanti compromessi, nel nome anche delle volte di un bene superiore. Ti faccio un esempio molto pratico. Se tu vuoi sventare un attentato, non vai a citofonare al farmacista, al tuo commercialista, che sono rispettabilissime persone fino a prova contraria, ma se devi sventare un attentato vai in quei mondi lì, in quei mondi che sono vicini all'ambiente terroristico, quindi chi fornisce le armi, chi acquista la droga, torniamo al discorso di prima. Quindi vai dal narcotrafficante, e molte storie di questo tipo sono raccontate nel libro, vai dal narcotrafficante e lui ti dà la dritta per sventare l'attentato. Però chiaramente lui vuole qualcosa in cambio. Allora tu considera, facciamo il caso dell'Afghanistan. Quando gli americani sono arrivati in Afghanistan, l'interesse era prendere Bin Laden. Chiunque aiutava gli americani per prendere Bin Laden era un amico. Alla CIA non importava che quell'amico lì fosse anche un narcotrafficante. Di contro invece la DIA americana aveva l'interesse a stroncare il traffico di droga. Quindi addirittura nell'ambito di uno stesso Stato, in questo caso gli Stati Uniti, hai due interessi contrapposti. L'antidroga, che vuol fermare il flusso di eroina che va verso l'Europa e gli Stati Uniti. Dall'altra c'è la CIA, che gli interessa prendere Bin Laden. E però chi aiutava la CIA, chi ha aiutato gli americani, la coalizione occidentale, sono stati i signori della guerra, che hanno preso il posto ai talebani e si sono messi loro a trafficare in eroina. Quindi hanno detto, signori, volete che vi aiutiamo a prendere Bin Laden, però ci lasciate fare i nostri traffici. E quindi la verità, la ragione di Stato, qui davvero anche il perché di questi segreti di Stato. Tante volte, come dicevi tu, si pensa, si prova a immaginare, si viene portati a pensare, il segreto di Stato perché non vogliono che vengano fuori le loro malefatte. Ma non è sempre così. La ragione di Stato, il segreto di Stato, serve a coprire queste operazioni in cui c'è gente che si gioca la vita. Chiaramente avere contatti con questi personaggi ti mette a rischio, e mette a rischio l'informatore stesso. Quindi deve esserci il segreto di Stato per forza, perché sennò questo vanno e lo ammazzano. Quindi insomma la realtà che scopri quando vai a scavare dietro le quinte, e non è dietrologia, perché se si intende per dietrologia che dici, secondo me è andata così, ok, ma se tu vai dietro e vedi che ci sono documenti e confronti e trovi riscontri, allora quello serve a mostrare quel dietro le quinte che magari non è sempre così evidente. Documenti e pensiero critico, diciamo, per riassumerlo in una formula un po' semplicistica, ma io credo che coglie il nocciolo della questione. Ascolta, Marco, tu lo ricordavo poc'anzi, ti concentri soprattutto sulla realtà siciliana, appunto perché la Sicilia, come snodo di tanti di questi traffici che uniscono appunto la droga con le armi, e soprattutto, tra l'altro, porti attenzione, diciamo, o meglio dire, sposti l'attenzione da Palermo, pensiamo alla Palermo degli anni 80 e degli anni 90, a Trapani. Ecco, Trapani come un epicentro importante, spesso dimenticato? Ma sì, guarda, Trapani, io da quello che ho trovato io, e chiaramente non solo quello che ho fatto io, ma in questi anni anche la letteratura giornalistica, Trapani è stato fino a ieri un buco nero, fino all'arresto. Non dimentichiamo che Matteo Messina Denaro era lì, per 30 anni è stato lì. È un buco nero proprio perché un po' distante dal capoluogo, ma vicino al capoluogo. Tieni conto che allora in quegli anni lì, anni 80-90, in cui la Sicilia è appunto l'hub mondiale, l'epicentro mondiale del narcotraffico, sia per quanto riguarda l'eroina che la cocaina, lì a Trapani arrivano i carichi maggiori, i servizi segreti militari, che dovrebbero agire solo all'estero, aprono il famigerato centro Scorpione, e nella motivazione di apertura dicono a Trapani proprio perché deve essere lontano dal capoluogo dove operano già altri servizi segreti. Quindi volontariamente aprono questo centro Scorpione, base di Gladio, a Trapani. A Trapani succede un fenomeno molto particolare. Ci sono delle piste abbandonate militari, almeno due, Trapani Milo e Trapani Chinisia, dietro l'aeroporto attuale di Birgi, che sono piste ufficialmente dismesse dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, invece si scopre che negli anni 80 arrivavano, e ho trovato quattro testimonianze diverse, ex collaboratori, ex pentiti, confidenti di poliziotti, che dicono che queste piste venivano usate clandestinamente per scaricare non solo armi, e questo era già venuto fuori in parte con il discorso di Ilaria Alpi verso la Somalia, ma anche, lasciami dire, soprattutto droga. E addirittura c'è un ex agente delle forze speciali della Marina, del Consubin, che dice, non a me ma al giudice Palermo, gli dice, per capire l'origine del patto tra Stato e mafia, del patto, quindi attenzione, le parole sono molto importanti in questo caso, come spesso accade, non trattativa, abbiamo sempre, negli ultimi 10 anni abbiamo parlato della trattativa, anche magari romanzando un po', e qua dice proprio patto, cioè il patto giuridicamente è una cosa che è già in essere, ma il patto lì è cos'è? Quella è la grande domanda. Lui gli dice proprio, per capire il patto tra Stato e mafia bisogna capire a cosa servivano queste piste. Una di queste piste era dismessa, appunto, ma all'occorrenza veniva riattivata dal clan Virga, che era il braccio operativo di Matteo Messina Denaro, e in caso di attivazione intervenivano anche gli uomini del centro Scorpione. E quindi questo è, ci sono tanti riscontri, quindi tu hai lì, a Trapani hai la mafia, hai i servizi segreti e hai non solo i servizi segreti ma anche una base di Gladio. Tieni conto che Gladio nasce per contrastare l'Unione Sovietica, l'invasione russa. Ora, aprire una base di Gladio in Sicilia nell'87, quando già il muro sta per crollare, non ha senso, quindi è chiaro che servisse ad altro. Ascolta, parlando di Trapani e parlando appunto di questa interrelazione stretta tra droga e armi, una storia che tu tratti nel libro è quella di Mauro Rostagno, no? Sociologo, giornalista, sì, attivista, fondatore poi a Trapani della comunità di recupero di tossicodipendenti Saman, che Rostagno fu ucciso, come si sa, nel settembre dell'88 da sicari mafiosi. Ecco, Rostagno già all'epoca considerava, no, la droga come il vero centro di gravità degli interessi criminali, no? Tanto da arrivare ad identificare il narcotraffico con la mafia stessa. Puoi brevemente parlarci della sua vicenda, collegandola a quello che, di cui già ci stavi parlando, e anche poi appunto del legame tra Rostagno e Falcone? Sì, guarda, Rostagno, allora, la premessa è che la sentenza, molte di queste informazioni su Rostagno, figura che io, devo dirti, conoscevo poco, ho imparato a conoscerla e a apprezzarla negli ultimi 2 anni facendo questo libro, che appunto sono stati 2 anni di lavoro, quindi anche qui di confrontismo c'è poco, perché insomma i documenti serve fatica e tempo per studiarli. La sentenza di primo grado del processo Rostagno contiene, è una miniera di informazioni e guarda, davvero racconta un pezzo di storia d'Italia, di come andavano le cose in quel periodo. Mauro Rostagno fa proprio questo, hai detto bene, lui mette l'accento sul narcotraffico, cioè la mafia in quegli anni lì e soprattutto e anche dopo è narcotraffico. Cioè quando noi parliamo di riciclare la mafia che ricicla, la 'ndrangheta che ricicla, ma ricicla cosa? Ricicla i soldi della droga, ricicla i soldi della droga. È bene dirlo perché ormai a me sembra che nel dibattito pubblico, anche noi sui giornali, questa cosa l'abbiamo rimossa. Cioè parliamo di riciclaggio, ok, la mafia andrà a comprare dei bar, però i soldi bisogna ricordarsi che al 90% arrivano sempre comunque dalla droga. Ieri era la mafia, oggi è la 'ndrangheta. E Mauro Stagno aveva centrato questo, lui stava studiando, anzi aveva alzato il tiro studiando il narcotraffico come business non solo della mafia, ma da una parte dei servizi segreti, da una parte di potentati economico-finanziari. Quando Falcone dice la mafia si è portata in borsa, alludeva esattamente a quello. Voleva dire che i soldi della mafia erano stati riciclati, i soldi della droga della mafia erano stati riciclati in un gruppo industriale del nord. Falcone, quando subisce l'attentato alla Daura, il fallito attentato, stava indagando sui soldi, sui fondi neri che andavano in Svizzera. Fondi neri che venivano costituiti dai servizi segreti, da parte dei servizi segreti, per finanziare delle misteriose operazioni coperte. Cioè tu fai un'operazione clandestina coperta, quindi illegale, è chiaro che non puoi andare dal ministro dell'interno o al presidente del consiglio a chiedergli uno stanziamento limpido nel bilancio dello Stato. Devi procurarti il finanziamento in modo illegale. È un'operazione illegale dall'inizio alla fine, dal finanziamento all'esecuzione. Mauro Stagno lavora su questo, scopre delle complicità indicibili a Trapani, tenendo conto che l'unico rapporto vero del centro Scorpione di cui parlavamo prima, l'unica relazione di servizio vera che è agli atti, è stata fatta sulla comunità Samani, su un presunto traffico di droga all'interno della Samani, ma parliamo dei tossici poveretti che erano lì. Quindi dici, ma in 3-4 anni che questo centro è stato lì, possibile che abbia, guarda caso, ha indagato ufficialmente solo sul centro sulla comunità di Rostagno. Rostagno, quindi, personaggio che si espone molto, agita con le sue trasmissioni molto, lui aveva anche questo fare un po' quasi da, insomma, molto militante, no? Un giornalista, ma si vesteva in maniera particolare, usava toni anche un po' così forti. Dava fastidio, era un po' un personaggio ingombrante. A un certo punto lui va a denunciare quello che stava da Falcone, chiede l'appuntamento, questo qua è un colloquio che è rimasto sempre nell'ombra, va poco prima di essere ucciso, va da Falcone, ottiene l'appuntamento dal giudice, va, parla con lui, nell'ufficio c'è solo lui, Falcone è una collaboratrice di Rostagno. Quando lui uscirà da questo colloquio, uscirà molto, molto deluso, molto scosso, quasi demoralizzato, basta, non faccio più niente, si potrebbe dire, è un'espressione forte, ma quasi deluso da Falcone, tanto che la collaboratrice dice, ma vai da Borsellino, lui dice, no, basta, non voglio più sapere niente. Allora qual è l'ipotesi? Che Falcone, avendo già lavorato a Trapani, un po' si trova davanti questo personaggio, un po' così sopra le righe, quindi magari lo prende anche un po' con le pinze, giustamente con il rigore del giudice. Ma che tante cose Falcone le sapesse, che volesse quasi proteggere lo stesso Rostagno, cioè quasi dirgli stai attento, e infatti pochi mesi dopo fa questa brutta fine. Teniamo conto che Falcone, l'ultima indagine di Falcone riguardava proprio un carico di droga che arrivò sulle coste di Trapani, un carico di coca che arrivò dal Sud America con la nave Big John, e dall'altra parte si stava concentrando su Gladio. Quindi Falcone in quel momento lì stava guardando verso Trapani. Ed è un mistero come, non so, forse anche solo questi due grandi personaggi non si sono piaciuti, ma è comunque qualcosa di non chiarito, che resta lì un po' così come irrisolto, insomma. Sì. Anche perché, finisco, i giudici di Trapani rilevano nella sentenza questa stranezza. Cioè Falcone, una volta ammazzato Rostagno, Falcone non andò dai giudici, dai PM di Trapani a dire l'ho incontrato, forse perché non si fidava dell'ambiente, aveva paura che venissero fuori certe cose su cui stava lavorando. È uno scenario davvero molto complesso in cui i servizi sono protagonisti. Servizi, alcuni pezzi di servizi deviati, infedeli o che lavorano per interessi di Stato che noi non arriviamo neanche a intuire, e comunque lì i servizi erano protagonisti, insomma. Un'altra storia che tu leghi a questa tua inchiesta, anzi a queste tue inchieste, perché sono molte in realtà quelle raccolte in questo libro, ha a che fare con un altro dei delitti irrisolti dell'Italia della metà degli anni 90 e che hai nominato poc'anzi, ossia la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il suo operatore Miran Rovatin in Somalia, no? Senza entrare poi sui dettagli del caso, tu a questo al delitto di Ilaria Alpi avevi già dedicato anche un testo uscito nel 2019 in un libro collettivo sul delitto di Ilaria Alpi. Segnali però, ecco, nel tuo libro una traccia che è rimasta sullo sfondo, quasi inesplorata, quella di una rotta appunto poco nota del narcotraffico che passava per la Somalia e poi raggiungeva l'Italia. Ci potresti un po' approfondire questo tema, senza ovviamente poi fare troppo, se vuoi, spoileraggio, così i nostri ascoltatori poi andranno a leggersi il libro? Sì, guarda, questa qua è un'ipotesi però fondata soprattutto sul racconto che mi fece, che mi ha fatto proprio di recente l'operatore di Ilaria, quello che l'ha sempre accompagnata tranne l'ultima missione. Che lui in commissione d'inchiesta, questo mi ha colpito, lui in commissione d'inchiesta ha insistito sul fatto che, dice, noi lavoravamo sempre su armi e droga. E quando gli chiedono esplicitamente, anche il commissario lo incalzano, dice sì, per Ilaria questa qua era la storia della sua vita. Lei parte nel 94, lui la sconsiglia e dice Ilaria non andare perché il nostro contingente si sta ritirando, è pericoloso, non possiamo andare, ci ammazzano. Lei va a Bosaso perché doveva riscontrare un'informazione. Quando, per essere brevi, quando lei intervista il sultano di Bogor, peraltro, tra parentesi, molte di questo girato, di queste immagini, nel viaggio di ritorno degli suoi effetti personali verso l'Italia sono sparite delle videocassette che erano sigillate dentro il suo zaino, quando lei sente questo sultano di Bosaso, gli chiede esplicitamente non solo delle armi, ma anche della droga. Quando il sultano di Bosaso verrà chiamato dalla commissione d'inchiesta, e lui, quando gli chiedono delle armi, dice ma sì, lo sapevano tutti, non era un mistero, qui si sapeva, venivano dall'Italia, venivano di qua, di là, con le mani. Navi della cooperazione, donati dalla cooperazione, si ipotizza. E però quando i commissari lo incalzano, gli chiedono della droga, lui veramente nelle sue risposte si confonde, tenta di cambiare discorso e poi dice non mi ricordo. Ma lo stesso Mugne, che è un personaggio accusato di gestire questa flotta che andava avanti e indietro dalla Somalia, dice in commissione che l'economia della Somalia in quel periodo lì si regge sulla droga, e lì non è chiaro se sulle piantagioni, sulla coltivazione di questa erba che hanno loro, il kat, ma pare, la mia ipotesi, però fondata anche su rapporti ONU, che la Somalia, essendo terra di nessuno, essendo vicina all'Oceano Indiano, relativamente vicina al Pakistan, potesse essere un canale da cui è passata e da cui magari passa tuttora l'eroina che arriva dall'Afghanistan, da quella regione lì. Perché oltretutto la cosa che sorprende è che i sequestri ci sono in Kenya, in tutti gli stati limitrofi, in Somalia zero. E allora uno dice, non sequestrano niente, invece è il contrario, proprio perché non ci sono controlli, non ci sono sequestri. Sarebbero tante le cose di cui trattare e da indagare, come tu hai fatto in questo libro. Il tempo in radio, come sai, è tiranno, ma ovviamente sì. Ci sono oltre 300 pagine del tuo volume da leggere e da scoprire. Un'ultima domanda per salutarci. La relazione europea sulle droghe di 2 anni fa, del 2022, sintetizza lo stato delle cose con uno slogan praticamente totalizzante. Ovunque, tutto, tutti. Ecco, in una delle appendici la droga viene definita come una decisiva aggravante di numerosi problemi sociali a lei non direttamente collegati. Ecco, di fronte a questo quadro, qual è l'atteggiamento delle istituzioni internazionali? Quello del semplice fatalismo o secondo te c'è anche dell'altro? Ma guarda, sì, io ci ho tenuto molto a mettere questa parte sull'impatto, proprio sui numeri che danno l'idea dell'impatto della droga, per ricordarci che anche qui non parliamo di trame di spionaggio, di fiction appassionanti, ma di qualcosa che davvero è devastante. Cioè, noi circondiamo l'epidemia di eroina degli anni 70-80, quello che è successo, tanti ragazzi perduti, e adesso sta ripetendosi la stessa cosa, pensiamo all'epidemia di fentanili in America, quindi parliamo davvero di una roba che è una peste, devasta intere generazioni. Quello che mi diceva la direttrice dell'ufficio ricerche dell'ONU in una recente intervista, mi diceva che sotto il punto di vista della collaborazione internazionale tra stati c'è ancora molto da fare, perché tanti sottovalutano il problema, alcuni non si fidano, altri sono gelosi delle loro informazioni, però il problema è che le mafie, la mafia albanese, la mafia l'andrangheta calabrese, le mafie sudamericane non hanno problemi a collaborare e interagire tra loro, perché hanno capito che questo è il modo di fare affari. E invece dall'altra parte, questo me lo diceva anche il giudice Palermo, dall'altra parte hai il problema della rogatoria, della giurisdizione, quindi magari c'è un ufficio che lavora anche all'interno dello stesso paese e non sa cosa sta facendo l'altro. Per fortuna è nata la direzione antimafia, ma su intuizione di Falcone ricordiamo, ma abbiamo visto che anche le ultime notizie di cronaca, anche sull'antimafia, dicono insomma qualcosa da perfezionare. Certo, ecco. Marco Birolini, autore di Stato Canaglia, Droga, Armi, Operazioni Clandestine, Gli Affari Sporchi dei Servizi Segreti Italiani e Stranieri, uscito lo scorso anno per Ponte alle Grazie. Marco, grazie davvero di essere stato con noi, complimenti per le tue inchieste e aspettiamo il prossimo libro. Grazie, grazie infinite a voi. Grazie a tutti. Thank you. mare, montagna e città d'arte. C'è il professore che non voleva più andare a scuola per lanciare un messaggio a favore della nazionalizzazione dello stabilimento italiano Ariston di San Pietroburgo. La moglie commenta: continuerà fino a tarda notte. Lino Banfi convoca in un bar l'ambasciatore russo per chiarimenti. Tragedia sfiorata in provincia di Latina. Un trentenne scrive semplicemente Giorgia su una stella sommersa dalla plastica che ora porta il suo nome. Lo annuncia il ministro Piantedosi elencando le basi della democrazia. Al contrario, nuove regole per l'accesso a medicina. Niente più test, primo semestre aperto a tutti, con ticket d'ingresso a 5 euro. Poi per proseguire bisognerà entrare in una baby gang insieme ai centristi di Italia Viva e Azione. Sulla scheda scrivete semplicemente: anche Lino Banfi potrebbe cessare di esistere. Così la premier Meloni alla convention di Pescara, annunciando l'attacco di terra di Israele a Villafranca Padovana, che continuerà da 4 a 15 giorni. Ma nel fine settimana dovrebbe tornare il sole. Per le europee, 42 simboli depositati al Viminale. L'appello di Paul McCartney a prendersi cura di loro e a non dimenticarli. Ancora qualche giorno per le liste, la stragrande maggioranza resterà in Italia. Elly Schlein rinuncia ad aggiungere dei piedi al simbolo del PD. Sarebbe stata una scelta divisiva. E sono tornate, l'avete sentite, le ultimissime Banzo. Insomma, non so se vuoi partire da Lino Banfi per un breve commento o dalla baby gang formata dai centristi. Ma partiamo da Lino Banfi, perché queste ultimissime ci ricordano purtroppo che potrebbe cessare di esistere, non si dice potrebbe morire, potrebbe cessare di esistere, come se fosse un'istituzione, un ideale, perché in effetti Lino Banfi è proprio quello. Ma agisce anche nel mondo terreno, perché ha convocato in un bar l'ambasciatore russo per chiarimenti. Abbiamo sentito la prima notizia, non ho capito bene cosa faceva questo professore che non voleva più andare a scuola. Era piuttosto caotica la notizia. Sui centristi di Azione, si sa che i moderati sono sempre i più pericolosi, però li vedo un po' lontani dal concetto di baby gang solo per questioni anagrafiche. Però è anche interessante come viene... Banzo, sì? Però scusami se ti interrompo, ma io direi che Calenda in una baby gang ci starebbe da Dio, Ma guarda, può essere. D'altronde, Calenda faceva anche... non faceva anche l'attore da bambino, già lì a... come Giusma, peraltro, quindi... Sì. Sono inizi che poi ti segnano profondamente. No, questo ingresso a medicina libero, medicina alla facoltà, non la località nel bolognese. E poi chiuderei con l'invocazione di Paul McCartney a non lasciare soli i simboli elettorali, perché cosa vuol dire? Innanzitutto mi stupisce che sia lui a dirlo, ma vabbè. Che vengono creati, abbandonati dai loro stessi creatori, perché c'è questa specie di macina elettorale che distrugge tutto. Non so, un giorno dovremmo fare una puntata dedicata alle sigle elettorali più assurde della storia della Repubblica Italiana. Assolutamente sì. Si parlava anche di Pescara, che veniva nominata anche nella canzone, se non sbaglio, di... qualche minuto fa, di Ivan Graziani. Torna a Pescara perché negli ultimissimi si faceva menzione al meeting di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, sempre più populista. Ecco, il brano che abbiamo sentito poco fa è di un bravissimo artista abruzzese, Setac, il suo nome d'arte Nicola Pomponi, Al Secolo, è uscito un mese fa, anticipa il suo disco che esce proprio quest'oggi, questo 3 maggio, Curre Curre il brano, il nuovo album di Setac che si intitola Assa Manu, è il terzo album. Nel 2019 era già uscito Bluesanza e nel 2021, ne avevamo parlato molto a Zibaldone, All'Estalé, arrivato anche nella finale delle cinquine delle Targhe Tenco di quell'anno, e per il miglior album in dialetto. Ecco, l'avete sentito, Setac canta in abruzzese e lo mischia con sonorità che sono blues e non solo blues. È davvero bravo Setac. A proposito di bravi artisti giovani italiani, Banzo, andiamo a sentirci un altro brano in questa parte finale dello Zibaldone con Marta Del Grandi, The Best. Esatto, però si tratta di un brano in inglese. Ecco, passiamo dall'abruzzese all'inglese. Il brano, come stavi dicendo tu, si intitola The Best, sì. E allora ce l'andiamo a sentire. Lei è Marta Del Grandi. Swimming back. throne. Sacred bond, no one knows where to find. So they give up on it. Any effort seems pointless. Can't unlearn how to cry, but with you I'm bruised quite a bit. For a change, there's no tragedy waiting to happen to me like it used to. For a decade or two, and the best sea we haven't sailed yet, and the best day it hasn't come yet. But for once I fear not, 'cause with you I could run through the storm, I could breathe underwater, I could change my mind about the things I'm most stubborn about. I could run through the storm, I could breathe underwater, and even let go of the things I'm most stubborn about. The Best Sea, lei è Marta Del Grandi con questa bellissima voce. Banzo telegraficamente che siamo in chiusura, alcune informazioni per i nostri ascoltatori su questa bravissima cantautrice. Sì, Marta Del Grandi l'avevamo sentita in un rapporto Italia con il disco Selva uscito a ottobre, ma questo non è un brano di Selva, è un singolo nuovo uscito il 15 aprile, nel frattempo ne era uscito anche un altro in collaborazione con Graham Reynolds. Questo The Best Sea serviva per lanciare un tour inglese di 8 date che si è chiuso il 29 aprile e neanche disponibile in video. Avete sentito la canzone, è bellissima nello stile che stiamo imparando a conoscere di Marta Del Grandi. Per chi fosse in Italia, comunque suonerà a maggio 2 date, una a Ravenna e una al Miami Fest in zona Milano, mi sembra il 10 maggio e il 26 maggio rispettivamente. Eh beh, andate a cercarlo anche sui social che sicuramente saranno aggiornati. Siamo davvero agli sgoccioli, ci resta solo il tempo per l'ultimo trago, ossia una canzone italiana cantata in spagnolo, interpretata da qualche artista della penisola o anche dell'America Latina. Quest'oggi andiamo con un brano meraviglioso di un bolognese, diciamo, globale, internazionale. Universale, sì, esatto, è un brano meraviglioso, effettivamente non è la solita esagerazione, perché stiamo parlando di Com'è profondo il mare di Lucio Dalla, un classico assoluto del canzoniere italiano, brano del 77, mentre la versione che andiamo a sentire è del 1983 ed è di Patxi Andion, che è stato, perché purtroppo è venuto a mancare nel 2019, un cantautore e attore spagnolo di origine basca, come suggerisce il nome. E questo brano appunto è stato riproposto nel 83 nel disco Amor Primero, che conteneva su 9 tracce totali 4 firmate in parte da Lucio Dalla. Immagino che a livello di diritti fosse tutto regolare. E quindi diciamo che l'amore di Patxi Andion per Dalla non è episodico, e comunque anche l'interesse per l'Italia, perché anche nel disco successivo uscito nel 86 c'erano una cover di Generali De Gregori e una cover di Mingardi addirittura. Comunque, brevemente, perché il tempo è sempre tiranno, il testo è sempre una cosa che vale la pena analizzare. Steven, beh, innanzitutto la versione di Patxi Andion dura un minuto in meno di quella di Dalla, ci sono 2 strofe in meno, tagliate proprio. E poi per il resto è abbastanza fedele, anche l'interpretazione, come sentirete, è ottima, però ci sono alcune piccole differenze che mi piace sottolineare, come per esempio Dio chi per lui nell'originale, che nella versione di Patxi Andion diventa Dios personalmente, quindi proprio c'è un cambio, uno slittamento deciso. E poi nell'originale Dio sta cercando di dividerci, di distruggerci, e invece nella versione di Patsy and Dion sono al riflessivo questi verbi. E poi verso l'inizio dice noi non abbiamo da mangiare, che diventa non scheremo salvare, cioè ci vogliamo salvare. Però ovviamente in questi casi tradurre il siamo proprio alla fine, Banzo, dobbiamo salutarci e darci appuntamento alla prossima settimana. Grazie di essere stato con noi, andiamo a sentirci Patsy and Dion. E come era solito dire, il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, a quest'ora, tutti i venerdì, diceva che cosa? Comunque, io con questa differenza fra i due testi non ho capito chi ce la deve mandare buona alla fine, ecco. Speriamo che qualcuno ce la mandi buona, perché ne abbiamo proprio bisogno. A venerdì prossimo, buon fine settimana, Patsy and Dion, che profondo è il mar. Somos nosotros, somos tantos que nos escondemos de noche por miedo a los automovilistas, a los linotipistas. Somos malvados, somos pesimistas, somos mal pensados y nos queremos salvar. Qué profundo es el mar, qué profundo es el mar. Que me las doy de cazador, de venados y faisanes, perdono moscas falaces que no me dejan dormir, ni siquiera respirar. Qué profundo es el mar, qué profundo es el mar. Es inútil, no hay más trabajo, no hay más convenios. Dios personalmente busca despedazarse, busca flagelarse, hacerse abnegar. Qué profundo es el mar, qué profundo es el mar. Con la fuerza del chantaje, el hombre se hizo alguien. Resucitaron los muertos, salieron los prisioneros, anduvieron los ciegos, vieron los cojos. Por un instante al pueblo sin base para aguantar y lo dejó caer en una hortera paz. Solo en medio del mar, qué profundo es el mar. Y entre tanto un místico o quizá un aviador inventó la inflación para poner todo de acuerdo, los guapos con los feos, los viejos y los niños, lo prohibido y lo legal en un espejo común para poderse mirar. Qué profundo es el mar, qué profundo es el mar. Y al cabo los peces de los que descendemos asisten curiosamente al drama colectivo de este mundo que indudablemente les debe parecer horrible. Seguro que pensarán cómo salimos de allá. Qué profundo es el mar, y es que es tan grande el mar. Qué profundo es el mar. Y claro, pensar eso es un fastidio, aunque pienses tanto como un pez y como el pez te resistas a picar, porque te protege el mar. Y tú, si piensas y a pesar de estas elucubraciones poéticas, tu pensamiento como un océano, no lo dejes bloquear, no te dejes enlatar, aunque nos están quemando el mar, nos están matando el mar, nos están humillando el mar, nos están olvidando el